Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Padre Cocche, sienta a me, Padre Cocche, sienta a me. Una persiana che sbatte, un lampione che luce. E un ubriaco che dice bussando alla porta, ma rapo non c'è. A tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei ascoltare. Gente decida, ma come già va. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Per mi fa dormire, per mi fa scordare il mio dolce amore. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Per mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte vetrine tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero, fosfato e bromo televisionato, grammi 003. Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me. Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa. Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca. Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tiro sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei ascoltare. Gente decida ma come già fa. Vetrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero, fosfato, bromo televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.